Europa 24. Umano che non è mai stato fecondato potrà essere brevettato, quindi essere utilizzato per fini industriali, commerciali o per effettuare ricerche scientifiche. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia UE del Lussemburgo. Una decisione attesa, come ci spiega il genetista Edoardo Boncinelli. È una grande cosa e io già in passato mi chiedevo perché non si faceva. Se da questo studio si capisse bene che cos'è una cellula staminale e che cosa la fa trasformare, sarebbe un grande evento. Una decisione che ribalta di fatto quanto stabilito il 18 ottobre del 2011 dalla sentenza Brustel, che aveva vietato al ricercatore tedesco Oliver Brustel, appunto docente dell'Università di Bonn, di brevettare un metodo per curare la malattia di Parkinson utilizzando cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, ovvero circa 5 giorni dopo la fecondazione. Potrà avere risvolti etici questa sentenza? Amedeo Santosuosso, presidente dello European Center for Law Science and New Technologies dell'Università di Pavia. Dipende come si vogliono vedere le cose, perché se si fa una questione di principio strettissimo, chi volesse farla può dire che comunque si tratta di uno sviluppo embrionale. Se invece si guarda la questione in termini di proiezione verso il futuro, siccome si sa per certo che questo avvio embrionale non può avere uno sviluppo nel senso della creazione di un nuovo essere vivente, allora il problema si risolve. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.